Sono nati in nomi illustri il 17 ottobre di qualche anno fa, nel 72, ad esempio, è nato Eminem, rappers di The Rival Slim Slash. Poi è nata anche Cecilia Dazzi, attrice della Squadra, Daniele Poggi, conduttrice TV di Chi l'ha visto. Poi che abbiamo? Rita, Arthur Miller, commediografo. E poi abbiamo Albino Luciani nel 1912, proprio per l'appunto il 17 ottobre, che per intenderci Papa Giovanni Paolo I. Il rosso era per me l'irraggiungibile che sempre mi inganno. Sto qui, il cuore lento di diavolo fragile, così il sole aspetta che abbassi la mia testa e il toreador colpisca. Così l'attesa su di me, silenzio immobile, adesso sono solo. Perché da qui non uscirò e non ritornerò. Sicuramente è brutto rimanere da soli per un comune mortale, figuriamoci un personaggio che grazie a X Factor aveva ricevuto tanti consensi da parte del pubblico, al terzo posto anche al Festival di Sanremo e poi all'improvviso il buio più totale. Marco Mengoni è rientrato con questo solo proprio a sottolineare quel periodo di buio. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with. with you shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my own. Falling in love with you. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Do I look all right? And I say yes. and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Era Eric Clapton da CRM Happy Radio con questa bella canzone intitolata Wonderful Tonight. Continuiamo con la musica e lo facciamo adesso con una bella canzone sempre straniera. Prima avevamo sentito, prima di Eric Clapton, Michael Bublé con Can't Help Falling in Love, che è una canzone proposta negli anni 70 dal bravo Elvis Presley, e questa volta invece, questa mattina, abbiamo sentito proprio da Michael Bublé. Continuiamo a parlare di notizie che arrivano dal mondo gossip e lo faremo con questa notizia che per adesso viene bombardata su internet, di Belén Rodríguez. All the other kids with the phone. veramente curiosa la notizia che sta veramente girando su internet, su questi siti di gossip. Parlano proprio di Benedetto Rodriguez e questo filmatino girato dal suo ex fidanzato Tobias Blanco. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Richiesta al nostro numero telefonico questa bella canzone di Emma Marrone che stamattina ascoltiamo e si intitola Sarò libera. Mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui. Mi sento un po' strana e mi trema la mano.

È l'amore che conta, vero? L'amore nella vita è molto importante, la popolarità e tante altre cose. Sicuramente per questi attori non è un periodo felice, visto e considerato che Galber Gargo, in un'intervista rilasciata a Gente, ha voluto sottolineare che il lato oscuro della sua popolarità. Ora ne parliamo perché è veramente un argomento interessante. Continuiamo con la musica italiana. Lei è la bella Gianna Nannini. Con te ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io vivrò con te, guardandoti esistere e nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a chi cura di splendere. Ti voglio tanto bene e niente finirà se non avrai paura. Continuare a vivere, io canterò per te, mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima, io canterò. Che bella Gianna Nannini, è brava Gianna Nannini, dobbiamo essere sinceri, qui mi hanno corretto e io devo essere sincero, condivido apertamente quello che mi ha detto dall'altra parte il buon Simone Brancato, che lo ringrazio e che anche per questa mattina è dall'altra parte del vetro che mi coccola e mi dà una mano in sala regia. Come già detto prima, praticamente Gabriel Garbo, un attore che in questo ultimo periodo sta andando veramente in auge, considerando il fatto di tutte queste soppopere, queste telenovele e tutte queste cose un po' così leggerine, ha dichiarato su Gente che la sua popolarità è una cosa bellissima, però c'è un lato oscuro che è quello di essere un po' perseguitato. Voli di aerei lontani che guardano il mondo dal cielo lassù. Per questa voglia di perdersi e non ritrovarsi l'hai fatto anche tu. Sui nostri oceani di pianto, sul mio disincanto, non tornerò più. Senza cielo, senza una meta, ma volo da solo nel mio pensiero, dove ogni nuvola è come te. Tutte le scosse che sento abbandonati. Ora che vedo i tuoi occhi ogni volta che chiudo i miei occhi, sei qui senza cielo, restando in eterna, tutto quel che resta è niente senza te, senza cielo e senza ali. Io volo, volo anche se... Allora, come stavamo dicendo poc'anzi di Gabriel Gargo, praticamente in una intervista rilasciata alla rivista Gente, per parlare, ha parlato del suo lato oscuro della popolarità, che lui ha già conosciuto in passato per colpa di uno stalker che lo perseguitava. Ora purtroppo la cosa è un po' peggiore, perché ha dichiarato che su Facebook c'è una persona un po' maniaca che sottolinea, invita le ragazze a spogliarsi, e quindi perché poi successivamente lo farà anche lui. La cosa strana è che molte ragazze lo fermano per strada e lo vogliono. Mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. È sicuramente un periodo bruttino per Belen Rodriguez nell'aspetto, diciamo, dell'orbita privata. Infatti Tobias Blanco che pubblica questo video un po' pizzicante, e nel frattempo anche Fabrizio Corona si incavola. Come stavamo dicendo, Belen Rodriguez in questo periodo, per quanto riguarda la sua vita privata, è abbastanza tormentata. L'ex fidanzato Tobias Blanco ha infatti messo in rete questo filmino un pochettino pizzicante. Giustamente Fabrizio Corona un po' si è adirato. You've got your YSL kicks and the red birthmark in the shape of Canada. That you try to keep a secret. You got a click clack walk and a cold hard stare. And if your eyes could talk, they'd say they just don't care. Before they wander off to hide inside their sockets. Got your scars. Birthmarks got your birthmarks. You've got to run through, hiding on your hip, honey. You've got your secrets, you've got your regrets. Darling, we all do. Allora, come dichiarato dal Fabrizio Carona, la sua, diciamo, infuriatura è dovuta soprattutto al blog di Selvaggia Lucarelli, che è stato il primo a diffondere il tape, la quale dal canto suo non crede che la ragazza fosse minorenne in quel video, poiché appare già donna. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. When you kiss me, I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me that tantissimo noi qui a CRM questa notizia di George Clooney, che sarebbe pronto a vendere Villa Oleandri per trasferirsi

la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati, sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato, che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sai, ti dirò come mai giro ancora per strada, vado a fare la spesa, ma non mi fermo più a cercare qualcosa, qualche cosa di più, che alla fine poi ti tocca di pagare. Sono un'altra da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene. Ora sono qui che guardo e mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Dei ragazzi hanno creato un'applicazione per gli smartphone che segnalano praticamente tutti gli esercizi che non emettono scontrini fiscali, fatture o ricevute fiscali. Quindi è un'applicazione per gli smartphone Android e per gli iPhone. Noemi ci va sempre così, che tanto indietro non si torna. E va sempre così, che parli ma nessuno ascolta. va sempre così, che aspetti il sole e cade pioggia. E va sempre così. Veramente bello oggi, anche se le temperature si sono letteralmente abbassate, così ci dicono le informazioni meteorologiche, ma così abbiamo sentito questa mattina quando siamo usciti da casa, abbiamo un attimino cambiato l'abbigliamento, abbiamo messo le camicie un po' più pesantucce, il maglioncino di cotone un pochettino più pesante, le scarpe, abbiamo abbandonato quelle estive per dare spazio un po' a quelle di mezzo tempo. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli coi tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad un artista e alla sua passione. Benvenuto a chi non cambierà mai a un anno di noi. A questa luna che i sogni li avvera o li dà o li nasconde in opportunità, a chi scivola, a chi si trucca in macchina. Questo lungo inverno, semmai ci aiuta a crescere, a chi ha coraggio, a chi ancora non ce l'ha. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi si spoglia per mestiere o voglia e alle stelle chiede aiuto.

Anna Ferretti oggi compie, pensate un poco, 107 anni della vecchietta più amata d'Abruzzo. A festeggiare con lei, oltre sicuramente i quattro figli, c'è anche gli otto nipotini, c'è anche il sindaco del paesino dell'Abruzzo, proprio per festeggiare questo evento molto importante. La cosa strana è che hanno chiesto alla nonnina Anna qual è il segreto per la sua longevità e lei ha risposto: pasta asciutta e un buon bicchiere di vino, possibilmente rosso. Continuiamo con la musica, questa è CRM e questa è Slalom, in compagnia con Francesco Puglisi. Cause I can feel the storm clouds. notizie più strane arrivano sicuramente dall'America. Questa arriva, pensate un po', dalla Florida, dove una signora, per dimostrare quanto sia importante il valore del denaro alla figlia, è andata a mangiare in un ristorante con la figlia dodicenne. Dopo che hanno veramente fatto un buon pranzo, lei è andata via ed ha chiamato lo sceriffo dicendo che la sua figliola era stata rapita. Ma la cosa strana è che 2 minuti prima aveva chiamato anche il ristoratore, dove comunicava allo sceriffo che una signora era andata via senza pagare, lasciando la figlia. Outside, you're looking at me. Broken glasses, neon lights and daytime TV. And then you shout out as loud as you can. With broken dreams on pillows while you're faking a tan. And you can smoke some, a happy parade. And through the mist I clench your fist at 5 I get paid. And then your eyes shut, but you can't now see. Cause you know you got the mouse. Sono convinto che comunque queste notizie o sono false o sono veramente, o veramente rasentano dell'incredibile. Pensare, questa magari un po' meno, ma tutto quello che parla di sesso, che io devo essere sincero, proprio volontariamente lo escludo perché mi sembrano di rasentare l'inverosimile, ma questa è un po' più veritiera, anche perché qui in Italia sono successe di queste cose. Pensate, in Inghilterra Grant Price, un apprezzato direttore di filiale che gestiva i patrimoni di diversi clienti guidandoli nei loro investimenti, un giorno era in ferie e si è presentato in banca il titolare di una cassetta di sicurezza. Quando sono andati ad aprire la cassetta di sicurezza si sono ritrovati una cosa strana: la cassetta era vuota, però c'era un biglietto proprio firmato al direttore. Don't give a sh- and it goes like this. Take me by the tongue and I know allora furbetto questo direttore, questo ex direttore di banca, perché con questo scamotaggio di aver lasciato il bigliettino nella cassetta di sicurezza non è stato più incolpato di furto ma bensì di truffa. C'è da dire, da sottolineare comunque, che il buon direttore di banca queste somme di denaro li usava per scommettere grosse, per scommettere praticamente sui cavalli, sul gioco dei cavalli, che è un bel vizio. Continuiamo e poi rientriamo. Tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. I just want you to know. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. È stata sicuramente già diffusa da un po' tante radio, dalle TV, da gossip, da internet, in qualsiasi posto si è parlato di questa notizia. Ora ne parliamo. Salutiamo Giulia e la mamma, la bella mamma che è all'ascolto. Eva, ciao Eva. Thank you. Beh, dai, dovrei fare una precisazione. Io dovrei fare gli auguri a Davide, ad Eva, perché hanno concepito insieme questa notizie curiose, idee e tanta musica. Allora, Marina Berlusconi è tra le donne più potenti del mondo, infatti su una classifica sfilata dal settimanale, dal più popolare riviste nel mondo, Fortune, è stata diciamo inserita nelle 50 più ricche e più potenti. Buon per lei, per Marina Berlusconi, che la troviamo quindi al 12° posto. Al primo posto, pensate un po', c'è Cinzia Garrolli, manager della società di estrazione mineraria anglo-americana. Continuiamo con la musica, questa è CRM Happy Radio, la vostra radio. Followed by thunder, the thoughts of going under, and the sempre più giovani minorenne in gravidanza in Sicilia. Pensate un po', c'è un aumento circa del 19% rispetto al nord Italia, che siamo pari al 10%. Questo anche a dimostrazione del fatto, questo è venuto fuori dal convegno di ginecologia tenutosi qua in Sicilia, dove le donne del sud usano la pillola circa l'8% contro il 18% del nord. Continuiamo, consigli commerciali. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Oh, Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Cettola Qualunque è il personaggio di Albanese che un po' tutti conosciamo, ma a Catena Nuova praticamente il web ha scoperto questo sindaco proprio di Catena Nuova, Ubaldo Biondi, che è stato incoronato proprio dal web come il nuovo Cettola Qualunque. Lui tra comizi, controcomizi, spopola su YouTube, proprio dove il primo cittadino tra congiunti e sintassi poco ortodossi proprio si è aggiudicato questa leadership assoluto. Vedo nero coi miei occhi, vedo nero e non c'è pace per me. Perdo il pelo, shot the monkey. Vedo nero e non capisco cos'è. Notizie curiose, idee e tanta musica. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Ma voce resto mai.

Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà. Noi senza serietà. Come fosse niente. Sai, la gente così cantava Elisa, che questa mattina abbiamo rispolverato grazie ad una vostra richiesta aggiunta al nostro numero telefonico. Musica italiana ancora, lo facciamo con una vecchia canzone firmata Antonello Venditti, che già sentite in sottofondo, che si intitola Amici mai, ma noi siamo amici però. Sono indeciso se darvela o non darvela. Arriva il terremoto, ma non era il terremoto, ma era la ginnastica di una... cioè il rumore che facevano tanti ragazzi che si stavano allenando all'interno di una palestra. Pensate un po'. Stasera devo uscire con lui. Lo sai, non è possibile. Io lo vorrei, ma poi viene voglia di piangere. certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è possibile odiarsi. Per chi si ama come noi, basta sorridere. No, no, non piangere. Ma come faccio io a non piangere? Oh, oh, oh, tu per me sei sempre l'unica, straordinaria, normalissima, vicina e irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è con lui, il nostro amore è unico, insuperabile, indivisibile. Ma amici mai, abbiamo fatto una bella scorpacciata di musica questa mattina. Abbiamo iniziato con la musica italiana, poi siamo andati all'estero, poi siamo rientrati in casa nostra. Abbiamo veramente fatto qui e lì. Io rinnovo gli auguri a Davide ed Eva e alla piccola Giulia. Saluto tutti coloro che ci hanno seguito. Vi ricordo gli appuntamenti: dopo di me c'è Qua e Là, poi c'è On the Road, Toc Toc, Sparlottando. Domani alla stessa ora, c'è Deja Vu con Mary Catalano, che saluto. E cosa dirvi? Se il buon Dio lo vorrà, noi ci sentiremo mercoledì mattina, sempre su CRM Happy Radio, sempre dalle 9.30 alle 13. Da Francesco Puglisi è tutto, buona vita a tutti e buon proseguo dei programmi di CRM.